una radio locale evangelica. Ringraziando il nostro Signore, da circa 6 mesi abbiamo a Modena come chiesa una radio evangelica. Il nostro desiderio non era tanto quello di avere una trasmittente per mandare in onda programmi preparati in studio, benché questo sia già una grande benedizione, anzi dobbiamo essere grati a Voce della Bibbia che ci mette a disposizione ogni giorno una cassetta registrata di 1 ora e mezza, la quale viene ripetuta giorno e notte, ma quello di trasmettere in diretta, così dal 31 dicembre 1977 ogni sera, dalle 19 alle 21, la comunità evangelica di Modena ha il privilegio e la responsabilità di parlare ai concittadini dal vivo. Come per molte cose che appartengono al Regno di Dio, per la realizzazione di questo lavoro si sono dovute affrontare innumerevoli difficoltà che non sto ad elencare. Una cosa però mi sembra degna di nota: trasmettere in diretta sarebbe stato possibile solo se vi fosse stata una sufficiente partecipazione dei credenti. Dal momento che la nostra comunità è giovane e non ha molti membri con una certa esperienza cristiana, cosa assai utile per un lavoro del genere, questo voleva dire una partecipazione pressoché totale di questi credenti. Abbiamo fatto una riunione e dopo una conversazione costruttiva si sono formate 6 coppie che si sono impegnate per una sera alla settimana. La domenica si è deciso di lasciarla libera per una coppia di volonterosi. 2 sorelle poi si sono impegnate a preparare un programma per i ragazzi da mandare in onda al sabato e alcuni fratelli si sono offerti per la parte tecnica. Così, titubanti, timorosi e inesperti, abbiamo iniziato. Non sono mancate e non mancano tuttora le inevitabili papere, ma questo non ci preoccupa tanto perché, in confronto alle altre radio locali, abbiamo qualcosa di serio da dire da parte di Dio, e lo diciamo con fierezza. Ogni coppia dà alla propria serata una particolare impronta, e questo ci aiuta a rendere più interessante e vario il programma. C è chi di volta in volta tratta una dottrina, chi un problema o un argomento, chi legge un libro a puntate, chi fa una chiacchierata in dialetto modenese, chi pone dei quiz e altre piccole idee per rendere più interessante l'ascolto. Dal momento che 2 ore sono lunghe da riempire di idee cristiane, ci si avvale, chi più e chi meno, di ogni letteratura cristiana, compresi i periodici. Personalmente sono contento di tutti i miei fratelli e le mie sorelle perché si sono impegnati con serietà e con devozione. Vedo in essi dei doni che senza questa occasione forse non si sarebbero mai manifestati. Succede qualche volta che per qualche motivo manchi una coppia, ma ce n'è n, è subito un'altra che volontariamente la sostituisce. E, bisogna dirlo, non sono sempre soltanto le coppie che si erano impegnate dall'inizio, ma altre che, sentendo le nostre papere, sono state incoraggiate ad andare davanti ai microfoni per fare le proprie. Che cosa mi ha insegnato la radio locale? Innanzitutto che ci sono persone che cercano Dio, e lo dimostrano molte telefonate di incoraggiamento che riceviamo. Una sorella che va di casa in casa a distribuire opuscoli ha notato che in molte famiglie la radio è sintonizzata sul nostro programma. Non sappiamo la portata di benedizione che potrà produrre questa trasmittente. Un'altra cosa che personalmente ho imparato è che ho più tempo di quello che pensavo. Parlare ogni settimana 2 ore per radio comporta una preparazione. Il fatto è che il tempo a disposizione è soltanto quello della sera, perché durante il giorno si lavora. Così, visto che ho dedicato 2 sere alle visite a persone inconvertite, 1 sera per la comune adunanza, 1 per la trasmissione, 1 per la famiglia, 1 per studiare e la domenica alle varie, sembra che non ci sia posto per altro, invece ho scoperto nonostante ciò di essere pigro. Posso fare di più. Così se prima guardavo la televisione 2 o 3 ore alla settimana, ora posso dedicare questo tempo allo studio. Se prima perdevo tempo in chiacchiere inutili, ora cerco di dire solo l'indispensabile. Se prima facevo una passeggiata spensierata, ora passeggio pensando a qualche studio. E di questa vita sono contento. Prima di tutto perché camminando per lo spirito non adempio i desideri della carne, poi posso affermare, con il salmista, questo bene mi è toccato, di osservare i tuoi precetti. Salmo 119, 56. B. Mandato a I.L. Cristiano.